Capitolo 4. Un felice incontro. Giugno 1949. Avendo io fruito di una borsa di studio governativa, Evelyn Walsingham mi invitò a cena. Ella aveva il compito di seguire quelli di noi che erano tornati dall'Inghilterra e di aiutarci nelle nostre difficoltà. Evelyn è sempre estremamente puntuale, ma io avevo dovuto ricucire un poveraccio all'ospedale e, sebbene la sua voce piacevole mi avesse tranquillizzata al telefono, quando giunsi da lei con 3 quarti d'ora di ritardo mi sentivo un poco colpevole. In quei mesi estivi del 1949, Evelyn abitava in Conduit Road, nel centro di quello che un tempo era stato il quartiere elegante. Conduit Road è costituita da 2 file di grandi e vecchie case che si ergono su massicce basi di pietra, rallegrate da alberi e da molti fiori. La casa appartiene a James e Fiona Manton, ma Fiona aveva dovuto recarsi in Europa e aveva quindi offerto a Evelyn di venire a tenere compagnia al marito durante la sua assenza. Quante volte in seguito dovevo entrare in quello stesso salotto per passarvi intere ore, ma lo ricorderò sempre come mi apparve quella sera, spazioso, con gli ampi finestroni aprentisi su un cielo trapunto di stelle, le pareti color avorio soffuse di una morbida luce, i paralumi di un rosa camelia, le poltrone verdi e rosa, i tappeti cinesi a disegni blu, il tappetino persiano splendente come un rubino, il lento giro dei ventilatori, le masse di fiori. E Tatty Bogle, il più bello e il più dignitoso dei levrieri, seduto sul suo sgabello e deciso a non permettere intrusioni. Tatty, che si piantava davanti agli ospiti, abbaiando a tutto spiano quando riteneva giunto il momento che se ne andassero. Tatty, anima gentile e pensosa, che tiene per sé i suoi sentimenti e dopo pranzo dorme supino con le gambe per aria in modo piuttosto indecoroso per un cane tanto come si deve. C'erano parecchie persone sedute qua e là nella stanza. Evelyn, bellissima in lino turchese, coi capelli d'argento filato raccolti in riccioli impeccabili intorno alla bianca fronte liscia, mi portò da una persona all'altra, coprendo la mia timidezza con un torrente di presentazioni. La sua tecnica fu tanto efficace che non afferrai distintamente nessun nome e quando a un certo momento disse corrispondente del, io strinsi la mano a Mark senza capire né il suo nome né quello del suo giornale. Poi andammo a cena. Ricordo una cosa assai futile. Perché mai si rammentano determinate cose e non altre? Il solo ricordo rimastomi di quella cena è la fuggevole visione della mano sinistra del mio vicino, con un anello a sigillo d'oro sul dito e molti peli neri sul dorso, che manovrava una forchetta. Mark non esisteva per me. C'erano ireos, gelsomini e rose nel vaso d'argento accanto alle poltroncine rosa, dove James Manton ed io sedemmo a bere il caffè e a parlare della Cina così vicina e così lontana. Tanto lontana dalla colonia da costituire un altro mondo. James è bello e simpatico, con grandi occhi spagnoli e sopracciglia dritte. È nato nella Scozia settentrionale. Quando mia moglie sarà di ritorno dall'Europa, dovrete venire a trovarci spesso, mi disse. Ella ama molto i cani e gli uccelli, e dato che voi avete una predilezione per i gatti e le farfalle, mi intenderete di certo. Poi parlammo dell'avanzata comunista e di come gli uomini d'affari siano tutti propensi a tirare avanti alla meglio in attesa che tutto si aggiusti e che sia possibile commerciare nuovamente con la Cina, poiché il commercio con la Cina è di importanza vitale per la colonia. Quando tutto si calmerà, si ricomincerà come prima. Non credo che i cinesi potranno mai essere autentici comunisti, non ci sono tagliati. Da migliaia di anni la famiglia è il centro della loro vita, non vi rinunceranno. Qualcuno attraversava la stanza, dirigendosi verso la poltroncina vuota alla mia destra. Alzai lo sguardo. Era un uomo, non molto alto, snello ed elegantemente sottile, nel suo completo bianco. Camminava con leggerezza, come se i suoi piedi fossero umani, alzando appena le gambe al ginocchio al pari di un cervo. Improvvisamente, la trama del tappeto sotto alla suola delle sue scarpe assunse per me un'importanza enorme. Era come se ci fossi distesa sopra e ogni suo pelo mi ferisse la pelle. Sentii, più che vederli, i disegni azzurri sul fondo nocciola, I simboli della felicità tessuti alla superficie, i pipistrelli e le peoni, i fiori di loto e i nodi innumerevoli, le pesche, i rampicanti che correvano lungo l'orlo. Era come se qualcosa si fosse d'un tratto rivoltato nel sonno dentro di me, emettendo un lungo sospiro, come un dito che mi accarezzasse il cuore, come un uccellino assonnato che arruffasse le ali per ritornare tosto a dormire. Poi tutto fu di nuovo calmo in me. Era inesplicabile quell'immediata conoscenza diretta del materiale di cui sono fatte le cose, senza bisogno di parole. Per un istante persi contatto con quella che chiamiamo realtà. La poltroncina su cui sedevo, la tazza di caffè che tenevo in mano, le parole di James. Bruscamente il mondo ritornò al suo posto. E mi trovai seduta, calma e sorridente, mentre Mark si lasciava cadere nella poltrona accanto alla mia. Egli mi ricambiò il sorriso. Come sono azzurri i suoi occhi, pensai, proprio come zaffiri. Bisogna che stia attento a non bere troppo. Gli occhi come i suoi diventano bianchi quando si beve troppo, proprio come quelli dei pesci. Il suo sorriso era tranquillo e spontaneo. Ben diverso dalla smorfia intensa e stereotipata che alcuni stranieri infliggono a se stessi, era quello che si chiama un sorriso a cuore aperto. Se non erro, abbiamo un amico in comune, mi disse. Peter Dixon. Oh, Peter! Esclamai, contenta. Come sta? È sempre con gli indonesiani? Sempre. E come sempre irritato da loro, pur amandoli. Malgrado i suoi sforzi, è convinto che non diventeranno mai adulti. Sono stata sua ospite 10 giorni a Bangkok venendo qui e mi ha portata un po' in giro e ho potuto scoprire in lui un vero odio verso i cinesi. Ciò è dovuto al fatto che ama i malesiani, i siamesi e gli indonesiani e non può quindi provare troppa simpatia per la vostra razza energica e intraprendente. Peter è veramente inglese nel suo desiderio di aiutare i deboli e gli oppressi. I vostri connazionali considerano questo una specie di sport. Ma egli non comprende la ragione per cui i cinesi non possono rimanere inattivi. No, suppongo si tratti di una tendenza innata nella vostra gente, disse Mark, e di una necessità, naturalmente. Allora non dovreste condannarci. No, certo. Non si deve mai condannare quello che non si può capire. Non credo che possiamo asserire di comprendere gli altri popoli. Ben difficilmente l'Oriente e l'Occidente si incontrano, non credete? Saranno sempre divisi e quindi non è possibile essere orientali e occidentali al tempo stesso. Bisogna scegliere o l'uno o l'altro. Lo credete davvero? Chiesi, trattenendo a stento un sorriso e abbassando lo sguardo. Quando alzai nuovamente gli occhi su di lui, egli mi stava fissando, ma educatamente distolse subito lo sguardo, poi prese a parlarmi di sé. Ho vissuto in Oriente per quasi 15 anni, ma l'anno venturo andrò in Europa, probabilmente a Roma. Sarà un piacevole cambiamento? Mi lanciò un'occhiata interrogativa. Veramente non ci tengo affatto, non posso sopportare il pensiero di dover lasciare tutto questo. Ma mia moglie sente molto la lontananza dall'Europa, le piacerebbe vivere a Roma. Ha ragione, io che sono asiatica non potrei vivere sempre in America o in Europa. Vi troverete benissimo a Roma. Non appena la Cina sarà tutta in mano dei suoi nuovi padroni, ci sarà un notevole subbuglio ovunque. Tutta l'Asia sudorientale sarà in tumulto. Non ve ne rendete conto, ma già state seduto sulla cima di un vulcano. Non sembrate dubitare che i comunisti vinceranno in Cina. Infatti, non esistono alternative. Questo sfogo di energia era inevitabile. Il popolo è per i comunisti, non perché sia comunista, ma perché il Kuomintang è inetto e corrotto. Questa sarà una delle più grandi e più incruente rivoluzioni del mondo. Oggi so che non avrei potuto trovare parole più adatte per fargli odiare il solo pensiero di dover ritornare in Europa. Ma allora, mentre gli parlavo, non conoscevo nemmeno il suo nome. Secondo me tutti gli europei dovevano tornare al loro paese ed egli non era per me che uno dei tanti stranieri. Era ora di andarsene. Tatti cominciava a essere nervoso e abbaiò di sollievo quando ci vide alzare. Entrammo nella notte stellata. le luci della città si arrampicavano sulle colline verso il cielo. Il verde e il rosso delle insegne al neon sotto di noi sembravano uno sciame di lucciole impazzite e il velluto nero dell'acqua era disseminato delle spille di brillanti delle navi all'ancora. Mi volsi verso Mark che mi camminava a fianco. Ah, Hong Kong, esclamai. Guardate, non si può sapere dove finisca il paradiso con le sue stelle e dove incominci la terra con le sue luci. Scendemmo lungo il sentiero serpeggiante che dalla casa conduce a Conduit Road, dove erano parcheggiate le auto. Era ripido e scivoloso. Da un lato si ergeva il muro ricoperto di muschio e di felci, dall'altro un piccolo parapetto di pietra bianca seguiva il sentiero fino alla strada. Intorno al lampione, che ne segnava il termine, sciamavano interi reggimenti di zanzare e di moscerini che, sbattendo rumorosamente contro la lampadina, finivano miseramente a terra. E sempre il fascino incandescente attirava nuove vittime dall'oscurità. Ci salutammo e James Manton mi accompagnò in auto all'ospedale. Mark si sporse dall'auto che divideva con altre due persone e mi rivolse un ultimo sorriso. Agitai la mano in segno di saluto, lusingata dalla sua calda cordialità. E subito lo dimenticai. Capitolo 5. Le menti si incontrano. Giugno 1949. La vicinanza acuisce il dolore della separazione e a Hong Kong io soffrivo di nostalgia per la Cina più di quanto ne avessi mai sofferto a Londra. May era ormai interna alla scuola e io abitavo all'ospedale. Da quando Ann Richards aveva preso in affitto un minuscolo e costosissimo appartamento a 200 metri dall'ospedale, avevo preso l'abitudine di farvi una capatina di tanto in tanto. Prendevamo il tè insieme, chiacchierando di Pechino e di Chongqing e dei giorni ormai lontani della guerra. Per Ann, come per me, la Cina costituiva il centro del mondo. Disseminati per Hong Kong, mi capitava anche di incontrare uomini e donne come Ann, americani e inglesi, che, una volta subito il fascino della Cina, non erano più riusciti a liberarsene e i cui discorsi ritornavano inevitabilmente agli anni trascorsi nell'interno. A Chongqing era terribile, dicevano, ma almeno era divertente. Eravamo vivi allora. Non esiste paese al mondo vivo quanto la Cina. Quando entrai da lei, con la prima lettera di Mark in tasca, Ann stava succhiando pensosamente il suo bocchino. «Cara Han Soyen», mi diceva Mark, «mi piacerebbe rivedervi, poiché vi ho trovata deliziosa». «Come va all'ospedale?» chiese Ann. «Ah, c'è moltissimo lavoro. Sento la mancanza dell'ostello religioso e dei suoi missionari. Mi sai dire che fa un missionario quando non può più predicare, Ann? È come un medico senza pazienti da curare?» Oh, tornano in America, dove viene loro assegnata una piccola parrocchia nell'interno del Dakota meridionale, mi rispose Ann. Altri si dedicano all'insegnamento, agli affari e suppongo che alcuni vengano impiegati come esperti a causa della loro conoscenza della Cina. Se dovesse sopravvenire una guerra, verranno messi a insegnare il cinese o aggregati al servizio informazioni. Mi porse una tartina al cetriolo. «Com'è andata la tua serata di ieri?» «Oh, benissimo. Ho fatto la conoscenza di un reporter che mi ha scritto per invitarmi a cena mercoledì 21, la mia mezza giornata di vacanza. Ma penso che non dovrei andare.» «Come si chiama?» Guardai nuovamente la firma. «Mark Elliott», risposi. «Oh, lo conosco», disse Annie. «È simpatico. È corrispondente straniero, non devi chiamarlo reporter, benché non creda che a lui importerebbe poi molto. Ma perché non ci vuoi andare?» «Beh, io sono cinese e lui è inglese. In Cina una ragazza non dovrebbe uscire con uno straniero. Una ragazza per bene, si intende. Oh, non essere sciocca. Questo è Hong Kong e non Chongqing. I tempi sono cambiati. Ti farà bene uscire con un uomo tanto per cambiare.» Venne il mercoledì e Mark mi attese fuori dell'ospedale accanto a una piccola Morris verde. Era una bellissima sera di giugno. Il mare era rosa e turchese, disseminato dall'oro e dal rosa delle vele e delle giunche da pesca e appena increspato da piccole onde sognanti e sorridenti. La terra era rosa e verde smeraldo. Le ombre azzurrine si arricciavano intorno ai tronchi degli alberi e ai piedi delle case. Le isole del mare erano occhiazzate di porpora. Un piccolo nembo di nuvole avviluppava il sole di un teatrale color arancione. Tutto era pieno di colore, artificioso e allegro. Dove andiamo? Mi chiese Mark. Non saprei, risposi, sono qui soltanto da 5 mesi. Dove preferireste cenare? Ah, non conosco nessun ristorante, sono stata soltanto in case di amici e, vergognandomi un poco di essere tanto impopolare, soggiunsi: Vedete, sono vedova. Infilammo Pock Fulham Road, lasciando Mount Davis, azzurro di crepuscolo, alla nostra sinistra. Beh, se non avete niente in contrario, vi porterò al Parisian Grill. Vi si mangia bene, disse Mark. Le pareti del Parisian Grill sono dipinte con scene che ricordano il balletto francese. Una cameriera fiorente, un gendarme che fa roteare il suo bastone, una pâche, alcuni bevitori di assenzio, due signore strette negli alti busti, un chiosco di giornali completo di giornalaio baffuto, un bambino col cerchio. Sedemmo sugli sgabelli ricoperti di pelle rossa del bar e fummo ossequiati dal direttore. Mark ordinò un gin rosa e io un martini. Spero che la mia lettera non vi abbia offeso, si preoccupò Mark. Sono stata sorpresa dal suo stile così diretto, ma non certo offesa. Se desideravate cenare con me, non avreste potuto scrivere meglio. Avreste potuto giudicarmi impertinente. Era la verità e quindi non c'è altro da aggiungere. Mark scoppiò improvvisamente in una piccola risata, leggera e piacevole. Vogliamo ordinare la cena? Propose. Personalmente mi piacciono i miscugli più strani. Che ne direste di un cocktail di asparagi e di una finanziera con animelle? Oh, mi sembra un programma piuttosto terrificante, mormorai. Il martini cominciava a far sentire il suo effetto benefico. Siete stato anche in Cina? Per me esistono solo 3 specie di esseri umani: i cinesi, i non cinesi che sono stati in Cina e tutti gli altri. E così Mark prese a parlarmi di sé. Mi disse dapprima del suo viaggio a Xinjiang e della sua visita alle grotte di Tunhuang e al lago di Crescent Moon, dove aveva mangiato meloni d'acqua. Era partito da Pechino facendo parte della strada a piedi, col sacco in spalla, come un qualsiasi viaggiatore cinese. E parte con gli autobus locali. Ordinammo un altro gin rosa e un altro martini, mentre egli continuava a raccontare. E improvvisamente, quasi senza volerlo, mi misi a raccontare anch'io. Eravamo seduti al tavolo e, tracciando arabeschi sulla tovaglia con la forchetta, gli spiegai la struttura delle parole cinesi. Poi parlai di poemi cantati, di cose a cui avevo pensato vagamente, senza mai giungere a formularle chiaramente. E le parole mi vennero facili e spontanee alle labbra. Poi Mark passò a parlarmi delle scuole pubbliche inglesi e dei saldi legami che esse creano e di come la vita diventi più facile quando si incontra un funzionario governativo che è stato un antico compagno di scuola. Oh, anche in Cina è lo stesso, dissi. Sentiamo molto il legame di una scuola comune, ma per noi si tratta dell'università. Confesso di nutrire una certa parzialità verso coloro che hanno frequentato la mia stessa università. Persino i nostri matrimoni vengono spesso combinati nelle aule universitarie. E appunto a causa dell'analogia fra la concezione di vita, quale viene insegnata nelle vostre scuole pubbliche, e la nostra educazione confuciana, che ho sempre trovato gli inglesi assai facili da capire. Mark mi narrò dei 2 anni in cui era stato finanziere, con quartier generale a Shanghai. Aveva girato la Cina in lungo e in largo, da Marken a Hando, da Nanking a Canton, stipulando contratti d'affari e talvolta appianando dispute. Era facilissimo per me, che non conoscevo una sola parola di cinese. Il grande segreto era quello di nutrire una fiducia completa, di non essere sospettoso o permaloso soltanto perché molte cose mi apparivano strane secondo il mio punto di vista. Non mi preoccupavo di mettere le cose per iscritto, come fanno tanti stranieri. Non ho mai saputo addizionare, sottrarre o moltiplicare senza errori, e quanto alle divisioni ci ho rinunciato da tempo. Ma ciò non incideva affatto sulla mia attività di finanziere, non ero nemmeno costretto a mentire. Generalmente dite la verità? Gli chiesi, chinandomi per scrutarlo in viso. La mia domanda parve sconcertarlo leggermente, ma mi rispose senza risentimento alcuno. Sì, credo di sì. Ma è difficile esserne certi, vedete? È anche difficile sapere qual è effettivamente la verità. Un liquore? Se non vi disturba, io fumerò un sigaro. Così brindammo ai suoi giorni di uomo d'affari e infine all'intero mondo, la nostra ostrica, come lo chiamava Mark. Quella sera sentivamo entrambi che la nostra vita era stata soddisfacente. Rinfrancata dalla coscienza della mia esperta saggezza, dimenticai i dispiaceri per ricordare soltanto di essere una donna che aveva vissuto una vita piena, che aveva una figlia e una professione. Mark mi diceva di come la vita fosse stata generosa con lui. Viaggi, successo nel lavoro, molti amici. Ormai sazi, parlammo di cucina, di tutti i cibi che avevamo gustato, cinesi, siamesi, indiani, americani, francesi, inglesi. Quando giravo la Cina a piedi, mi disse Mark, gustavo tanto il melone. E la sera, quando l'aria fredda cominciava a pizzicarmi il naso con le sue dita, mangiavo tortini caldi conditi con prezzemolo e cipolla, fragranti di semi di sesamo, che imbottivo con abbondante prosciutto affumicato, e congee, caldo, fumante, odoroso di semi di ninfee. Per carità, fermatevi, lo interruppi, mi fate sentire più che mai la nostalgia della mia patria. Penso alle notti di luna a Pechino in autunno e alle piccole tazze di vino caldo. E alle sottili fettine di zenzero con fegato in salamoia e salsiccia, e alla luna che ammicca enorme fra gli alberi, e alle ultime deboli cicale. Dietro quella serata vi erano passati ben diversi, ma essi si fusero in un confronto di episodi divertenti. Nel 1933, diceva Mark, io ero in Giappone a visitare i templi sacri. Io invece ero all'Università di Pechino, ribattevo. Io andai a Pechino nel 1936. Io ero partito per fare un giro di tutta l'Europa, mi trovavo in Italia e così via. Pur essendo nati entrambi a Pechino a qualche anno di distanza, non avevamo nulla in comune e non eravamo mai stati nello stesso luogo contemporaneamente fino a quel momento. Mark sembrava straordinariamente soddisfatto di ciò. Non era assolutamente possibile che ci fossimo incontrati prima, ripeteva. Il destino non ci ha mai portati nello stesso luogo, nello stesso momento. Inesauribili, continuammo a parlare. I mesi che Mark aveva passato nella Nuova Guinea, chiuso in un busto di gesso per la frattura di una vertebra, parvero un comico interludio in una vita piena di interludi, simile a un intero banchetto di antipasti. I miei anni di solitudine divennero gli anni della saggia formica, spesi a raccogliere una quantità sempre maggiore di sapere da accantonare nel granaio della mia mente. La preparazione necessaria alla mia professione, che mi avrebbe permesso di contribuire alla rinascita della Cina. I medici, dissi, sono venerati e trattati con i riguardi che un tempo erano riservati agli indovini e ai sacerdoti. Di conseguenza, la nostra avidità di potere è fenomenale. Il controllo che, sia pure entro certi limiti, possediamo sulla vita e la morte non può non darci alla testa. Siamo tutti megalomani. Oh, lo siamo anche noi giornalisti, ribatte Mark. Pensate alle delusioni che propiniamo alle folle dei nostri lettori. Noi siamo i grandi dispensatori dell'inquietudine dell'ultima ora. La nostra malattia si chiama folie de grandeur. In quel momento ci consideravamo favoriti dalla fortuna. Tante erano le cose che c'era stato concesso di vedere e di udire, di sentire e di vivere. Comodamente appoggiato allo schienale della poltroncina, Mark fumava soddisfatto il suo sigaro. Mi piace la fragranza del sigaro, gli dissi, stimola l'immaginazione. Mark mi chiese perché mi piacessero i martini. È l'unico nome di cocktail che mi sia venuto in mente, gli risposi in tutta sincerità. Lo sherry è troppo inglese. E voi lo siete già a sufficienza. Non mi andava di chiedervi il tipico aperitivo rispettabile per una signora inglese. Che piacevole serata! Esclamò Mark con un sospiro di soddisfazione. Non prevedevo che sarebbe stata tanto piacevole. Quando a Singapore Peter mi parlò di voi al telefono, mi dissi: Ah, questa è un'altra delle donne intellettuali di Peter. Ed evitai di incontrarvi. Fra l'altro, avrei giurato che portaste gli occhiali. Poi, quando vi vidi da Evelyn, fui veramente sorpreso e finii col concludere che non poteva trattarsi della stessa persona di cui mi aveva parlato Peter. Temo di avervi raccontato la storia della mia vita e di avervi detto di me più di quanto possa ricordare. Proprio così, ammisi. Veramente mi aveva detto tutto di sé. In seguito mi narrò molti altri particolari, ma già da quella sera io lo conoscevo bene.